semplici sono quelle in fondo al cuore, le cose semplici non fanno mai rumore, arrivano come piume sparse al vento e si posano su di te fino a coprire tutto ciò che sei. Le cose semplici come arrivano volano via, non ti resta che guardarle un po' e rimpiangere di non averle prese quando ormai non ci sono più. Le cose semplici sono un sorso d'aria pura, le cose semplici sono quelle che hanno cura, di te che ormai non ci speravi più. E resti lì a guardarti un po', e loro lì che ti accarezzano. Le cose semplici come l'amore che ti ha consumato, che ti voleva prendere la mano, ed ora è così lontano e non puoi prenderlo più. Le cose semplici non le puoi intrappolare nel tuo tempo, sono come un lampo nel buio della notte che ti spaventa, sono il giorno che tu aspettavi, sono quello che tu credevi che non potesse accadere mai. Le cose semplici sono granelli di sabbia sottile tra i tuoi capelli, che si tramutano in un amaro ricordo quando il cuore diventa sordo, perché ha paura e non vuole volare, e invano rimarrà ad aspettare. Le cose semplici, le cose semplici, le cose semplici, le cose semplici.